Sura 62esima. Al-Jumu'ah. Il venerdì. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Glorifica Allah ciò che è nei cieli e sulla terra, il Re, il Santo, l'Eccelso, il Saggio. Egli è colui che ha inviato tra gli illetterati un messaggero della loro gente, che recita i suoi versetti, li purifica e insegna loro il libro e la saggezza, anche se in precedenza erano in errore evidente, e ad altri che ancora non li hanno raggiunti nella fede. Egli è l'Eccelso, il Saggio. Questa è la grazia di Allah, egli la concede a chi vuole. Allah è il detentore della grazia immensa. Coloro cui fu affidata la Torah e che non la osservarono, assomigliano all'asino che porta i libri. Quanto è detestabile la similitudine di coloro che tacciano di menzogne i segni di Allah. Allah non guida gli ingiusti. Di, o voi che praticate il giudaismo, se pretendete di essere gli alleati di Allah ad esclusione degli altri uomini, auguratevi la morte se siete veritieri. Giammai se l'augureranno a causa di quel che hanno commesso le loro mani. Allah ben conosce gli empi. Di loro, o Muhammad, in vero la morte che fuggite vi verrà incontro, quindi sarete ricondotti a colui che conosce l'invisibile e il palese, e vi informerà a proposito di quel che avrete fatto. O credenti, quando viene fatto l'annuncio per l'orazione del venerdì, accorrete al ricordo di Allah e lasciate ogni traffico. Ciò è meglio per voi se lo sapeste. Quando poi l'orazione è conclusa, spargetevi sulla terra in cerca della grazia di Allah e molto ricordate Allah affinché possiate avere successo. Quando vedono un commercio o un divertimento, si precipitano e ti lasciano ritto. Di, quel che è presso Allah è migliore del divertimento e del commercio, e Allah è il migliore dei sostentatori.